24 mattino di Alessandro Milan. Le 7:18 minuti, eccoci cari ascoltatori, buon venerdì 17 settembre, chiudiamo la settimana di 24 mattino. Subito il sondaggio di oggi, parliamo di federalismo, dell'ultima battaglia della Lega, rilanciata da Bossi, dal ministro Calderoli un paio di giorni fa in Parlamento, ed è questa: decentrare alcuni ministeri da Roma, spostare alcuni ministeri da Roma, proprio nel giorno in cui il Consiglio dei Ministri discute del tema Roma Capitale. Che ne pensate? Sareste d'accordo a spostare alcuni ministeri da Roma, metterli nelle varie città italiane? Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8:30 ed ora, come di consueto, andiamo a vedere che cosa ci propongono i giornali in edicola. Eon, luce e gas. Scopri la nostra energia su eon.it. Vi presenta In Primo Piano. Venerdì 17 settembre, per l'appunto, detto in apertura che tra i quotidiani in edicola oggi non troverete l'Unità, oggi e domani, due giornate di sciopero, e certo anche questa è una notizia, sciopero all'Unità, perché sono state tagliate alcune edizioni di credo Emilia Romagna, di cronaca di Emilia Romagna e Toscana, e dunque l'Unità non uscirà in edicola, non esce in edicola oggi e anche domani. L'apertura dei quotidiani, il Fiat scorpora l'auto, questa è l'apertura del Sole 24 Ore, sarà anche il tema di Oscar Giannino alle 9. E poi la vicenda Roma-Francia ha preso una piega davvero da crisi diplomatica, da tensioni molto forti. Sarkozy va avanti, via i Rom, Corriere della Sera. Per Repubblica, Rom, scontro Sarkozy-Merkel. Per il Messaggero, Sarkozy Barroso, scontro sui Rom, tutti che litigano, insomma. Rimpatri dei Rom al vertice, scontro Sarkozy Barroso, anche per la Stampa. Questi titoli principali, poi vedremo qualcos'altro per Giornale, Fatto, Manifesto, Libero, più avanti nella rassegna stampa, ma io vorrei partire proprio da qui, cioè ormai sono scintille incredibili dopo che la Francia ha detto con Sarkozy continueremo l'identificazione dei campi, lo smantellamento dei campi abusivi e il rimpatrio dei Rom. Ieri c'è stato un pranzo, come scrive Adriana Cerretelli da Bruxelles a pagina 11 del Sole 24 Ore, un vertice, un pranzo al calor bianco, davvero, raccontano i ben informati. Chi ha fatto la spia è il premier bulgaro, che ha raccontato come Sarkozy e il presidente della Commissione Europea Barroso siano arrivati a male parole durante il pranzo. Ovviamente Sarkozy irritato per quello che ha detto il commissario alla giustizia Vivian Reding due giorni fa, che ha addirittura accostato l'espulsione dei Rom alla Shoah. E poi la Reding ha chiesto scusa. Tutti che chiedono, ma davvero Sarkozy le ha urlato contro alla fine del pranzo a Barroso? Barroso molto rigido ha detto noi rispettiamo i trattati, ma il bulgaro premier Boyko Borisov ha proprio detto di un pranzo nel quale sono volate male parole tra i due. Tra l'altro, da chi avrebbe ottenuto solidarietà Sarkozy? Forte solidarietà solamente da Silvio Berlusconi. Berlusconi critica l'Unione Europea, consulti prima gli stati, questo a pagina 3 del Corriere della Sera, e anche Repubblica, a pranzo Berlusconi sbotta, i commissari devono stare zitti. Sarkozy sui Rom fa bene, scrive Repubblica con Alberto D'Argenio a pagina 3. Ha ragione da vendere, sono certo che sta agendo nel pieno rispetto delle regole comunitarie. A dirlo è Silvio Berlusconi, che poi ha detto i commissari e i loro portavoce non dovrebbero avere nemmeno il diritto di parola. L'unico a parlare alla stampa dovrebbe essere il presidente Barroso. Questo secondo Repubblica avrebbe detto Berlusconi, un litigio nel mezzo di un litigio dai toni senza precedenti, così racconta anche Repubblica, quello tra Sarkozy e Barroso, con Sarkozy infuriato. Due giorni fa Sarkozy aveva detto di Vivian Reding se li prendano in Lussemburgo, perché è lussemburghese la commissaria europea, creando ovviamente anche qualche tensione diplomatica tra i due paesi, anzi, come vuol dire Sarkozy, tra il grande paese, la Francia, quello della grandeur, e il Granducato di Lussemburgo. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore c'è anche un editoriale non firmato, presumo dunque legato comunque alla direzione, a Gianni Riotta, dal titolo Francia, ricordi più la tua lezione di fraternità? Sarkozy e i Rom. Nei quartieri popolari delle metropoli europee spesso i nomadi Rom, i Roma, gli zingari insomma, sono un problema. I cittadini lamentano furti, disagi, sporcizia, disordine. Gli amministratori non lasciano che i nomadi si avvicinino nelle zone residenziali e la guerra tra poveri genera rancore. I sindaci non riescono a integrare i nomadi, bambini troppo di frequente vengono impiegati per borseggi, accattonaggio. E questo è il punto di partenza da risolvere, ma l'atteggiamento scelto platealmente dal presidente francese Sarkozy, la pressione psicologica che Parigi sta esercitando sull'Unione Europea contro i Rom, nulla hanno a che fare con l'indispensabile ordine delle nostre città. È un tentativo goffo e scoperto di recuperare il consenso perduto da Sarkozy mettendo sotto pressione i nomadi con le espulsioni. E si conclude questo editoriale in prima pagina del Sole: è una strada sbagliata. Il futuro dell'Europa, il suo straordinario mercato libero, la sua valuta che ha stupito il mondo, la creatività del programma universitario Erasmus che ha forgiato la prima generazione europea non si difendono eludendo i problemi e facendo la voce grossa coi più deboli. Ed è bene che Roma non segua Parigi su una strada che è non solo ingiusta ma anche a breve perdente come chi ha voluto imboccarla. C'è anche un giallo secondo il Fatto Quotidiano a pagina 3, perché Bossi ha detto sono dei ladri, e infatti la Padania titola Rom chiedete alla gente, ma il giallo è questo: secondo un dispaccio della DN Cronos anche Bersani avrebbe detto delle frasi che il Fatto giudica infelici. Ieri Bersani a registrare Porta a Porta avrebbe detto: anche dalle mie parti si diceva arrivano gli zingari, chiudete le porte, ma nessuno li ha mai trattati male. E per il Fatto è gaffe di Bersani sugli zingari. Secondo un'altra ricostruzione dell'Ansa, il leader del PD avrebbe anche detto: risulta anche a me che i Rom sono ladri. Frase che in questo caso il Fatto definisce infelice. Ora, bisogna capire, le ha dette o non le ha dette, chi lo sa? In primo piano. Alle 7:34 minuti, eccoci nuovamente con la lettura dei giornali. Noi, dopo la questione Rom, trova ampio spazio sui giornali la vicenda di quello che è successo a Roma, con le frasi dell'assessore alla scuola di Roma, Laura Marsilio, che hanno suscitato un putiferio. Cioè, è andata a inaugurare la scuola Pisacane, quella dove sono tutti stranieri, e che cosa ha detto? Questa è la testuale frase: anche se questi bambini sono nati in Italia, è sbagliato considerarli non stranieri. Non è solo un fatto anagrafico, ma una questione culturale. È bene che questi bambini possano convivere con quelli di origine italiana, perché così si favorisce un sentimento di appartenenza. Si è scatenato un putiferio su questa frase: i figli degli stranieri nati qui, è sbagliato considerarli italiani, cioè bisogna considerarli, è sbagliato considerarli non stranieri. Una frase che anche Filippo Facci su Libero dice: io non capisco dove sia lo scandalo della frase pronunciata da questo assessore, dalla quale si sono distinti però anche lo stesso sindaco Alemanno, il presidente della regione Polverini. Eppure Filippo Facci scrive in un commento in prima pagina di Libero, dal titolo I deliri del politicamente corretto, ha detto questa frase che vi ho letto. Ora, cosa non va in questa frase? Non si capisce, scrive Facci, perché se la lingua italiana ha un significato, Laura Marsilio ha detto che se i genitori di un bambino sono del Bangladesh è inutile fingere che siano di Cuneo. È inutile e sbagliato ignorare la matrice culturale che probabilmente avrà contraddistinto la sua educazione, oltretutto può essere fonte di confronto e ricchezza. E Facci definisce mentecatti quelli che hanno definito l'assessore esplicitamente razzista, fuori da ogni civiltà, intrisa di subcultura retrograda sconfitta dalla storia mastrisciante in ambienti della destra, oppure parlando di giunta Alemanno vergogna d'Europa. Però Facci dice il problema che hanno parlato anche alcuni del centrodestra, come Alemanno, l'assessore Marsilio si è espressa male. O il presidente della regione Polverini: l'assessore Marsilio sicuramente si è espressa male, mi auguro che si corregga. Chiunque non venga dalla luna, chiosa Facci, sa bene che oltre alla verità esiste l'opportunità o meno di dirla, le parole più o meno giuste per farlo. Può darsi che l'assessore abbia sbagliato qualcosa, e però le sue parole da sole paiono ineccepibili, perlomeno a noi. Guai se l'assessore dice che gli immigrati sono stranieri. Questo è il titolo di Filippo Facci. Questa frase, insomma, che ha suscitato polemiche: i figli degli stranieri nati qui, è sbagliato considerarli italiani, o meglio, è sbagliato considerarli non stranieri. Questo ha detto l'assessore Marsiglio, tema sul quale non escludo lunedì ci cimenteremo. Ma andando alla politica, la notizia del giorno, secondo me, sviluppata dai giornali della politica, è il ritorno di Walter Veltroni, che dopo, lo avevamo raccontato in questi giorni, dopo momenti di malumore con la linea di Bersani, ora è proprio esploso con un'intervista, con un documento. Tanto che il Riformista titola proprio in prima pagina, con la foto di Veltroni: a volte ritornano, Veltroni spacca il Partito Democratico. Veltroni, Bersani, scontro aperto anche per il Corriere, PD senza bussola, ha detto Veltroni. Sbagli tutto, la replica di Bersani. Insomma, un Veltroni che ha detto, parliamoci chiaro, siamo al 24,6% nei sondaggi, mentre in un momento di difficoltà abbiamo ottenuto il 34%. Questi gli ultimi sondaggi elettorali, ha detto in questa intervista a Repubblica TV, che oggi Repubblica Cartacea riporta a pagina 11. Io però voglio aiutare. E poi ha detto, cerchiamo nella società un nuovo Prodi. Ecco, su questa frase il Corriere ha provato a interpellare lo stesso Romano Prodi. Francesco Alberti lo ha fatto a pagina 9 del Corriere della Sera. Dalla Cina, però, racconta Alberti, con stupore, un desolato stupore, riferiscono gli intimi. Tutto si sarebbe aspettato Romano Prodi, che assente dall'Italia da una decina di giorni è rientrato nei giorni scorsi, tranne che di ritrovare il suo PD in questo stato, squassato per l'ennesima volta da quel virus rissaiolo e autolesionistico di cui il professore, in qualità di cavia politica, ha verificato suo malgrado la furia distruttiva. E poi Alberti, che non ha parlato con Prodi ma con alcuni che evidentemente gli sono a fianco, gli si leggeva in faccia quando rispondeva alle numerose chiamate ricevute quello che pensava, racconta chi è con lui. Sono totalmente fuori dal dibattito, dice, per carità, nessuna dichiarazione pubblica, mi sono occupato d'altro, ma raramente, raccontano, hanno visto il professore così preoccupato e probabilmente pure furioso. Furioso con Veltroni è anche l'ex presidente del Senato Franco Marini, che in un'intervista a Repubblica lo definisce un fariseo. Walter usa toni da fariseo. La motivazione del documento di Veltroni, della nascita di questo movimento, è un pretesto, dice Marini. Quale sarebbe? Che alla fiera dei sondaggi il PD di Bersani tocca il 26%? Voglio ricordare che nel marzo 2009 un sondaggio dava al PD, uscito dalla segreteria di Veltroni, al 22%. Questi movimentisti sostengono di aiutare il partito, ma si tratta di buonismo ridicolo, fariseismo. Mettiamo i piedi per terra, il PD si è posto il problema. No all'elezione a novembre, perché la situazione del paese è critica. Insomma, un'uscita di Veltroni che ha letteralmente creato un terremoto all'interno del Partito Democratico. È tanto che, come dire, come fa a non sguazzarci il solito Riccardo Barenghi con la sua Iena, pagina 3 della Stampa. Bussole, in effetti il PD di Veltroni una bussola ce l'aveva, andava di qua ma anche di là. Torna il manche, spettacolare. Due giorni fa Veltroni ha fatto un'intervista, ha detto: sono dentro e fuori al PD, dentro e fuori. E insomma, questo ha messo un po' in secondo piano quello che sono le difficoltà oggettive e seguite da tutti i giornali della maggioranza, soprattutto il tentativo di trovare voti con questa ricerca del gruppo di responsabilità, la legione straniera, gli ascari di Berlusconi, chiamateli come volete, come sono stati definiti dai giornali, e che ha visto il segretario dei Repubblicani Nucara in primo piano a muoversi per cercare dei sostegni di voti in Parlamento. Ieri Casini ai dissidenti ha detto andate pure, ai 5 dissidenti siciliani pare che Casini ha detto andate pure, mentre Mattia Feltri sulla Stampa, in un brillante articolo a pagina 12 e 13, ricorda come, altro che bipolarismo, sapete quanti sono i partiti attualmente rappresentati alla Camera, al Senato? 19. Come 19? Ebbene sì. Beh, certo, le scissioni dei due maxi partiti, Rutelli che ha fatto l'API, Fini che ha fatto non un partito ma un gruppo Futura Libertà. E poi, che dire, nel gruppo misto c'è il Movimento per le Autonomie di Raffaele Lombardo, da cui si sono staccati i deputati di Noi Sud, oppure i liberali di Guzzanti, la Lega Sud Ausonia con Vincenzo Scotti, da non confondere Noi Sud, perché scrive Feltri si arrabbiano tantissimo, con Io Sud, il fronte di Adriana Poli Bortone. Poi ci sono i repubblicani, quelli di Nucara e non solo, i repubblicani europei di Luciana Sbarbati, ma pare che si uniranno questi due. Ci sono tre parlamentari che nella legislatura scorsa stavano con Lamberto Dini, ora si dicono liberal democratici, o alcuni diniani eterodossi. Poi oltre all'UDC c'è la ADC di Francesco Pionati. E così via, col Movimento Associativo Italiani all'Estero, che è diversa dagli Italiani nel Mondo, di Sergio De Gregorio. E con quelli, dice Feltri, fermi un giro, comunisti, socialisti, verdi, che sono fuori, ma o Rifondazione Comunista, ma pronti al prossimo giro, chissà, a tentare di entrare. Altro che bipolarismo. Mentre la politica anche si... cioè ci sono delle cose che si ripetono un po' tutti i giorni, per esempio anche oggi Libero fa l'attacco a Fini, tira fuori la vicenda di un'altra casa, la casa questa volta è una casa, racconta Franco Bechis, il titolo di prima pagina del Libero è Il partito di Fini, futuro e mattone. Lo schema è quello della casa di Monte Carlo, scrive Franco Becchi, su una casa nel 2005 di proprietà del partito Alleanza Nazionale che finisce a Martina, figlia di Vincenzo Zaccheo, già deputato di AN, sindaco di Latina, ora finiano, in Futura Libertà, prezzo di cessione 515.000 euro. Una casa di assoluto prestigio di 3,5 vani nel salotto di Roma e che dice Libero probabilmente valeva molto, ma molto di più. Si chiede Libero perché è finita questa casa alla figlia del sindaco ex di Latina. Forse c'è il metodo Monte Carlo utilizzato anche lì. E come c'è invece sotto accusa da vari giornali la Lega. Tra l'altro è un tema del nostro sondaggio, la Lega che vuole decentrare i ministeri da Roma, alcuni ministeri da Roma. La Lega è sotto attacco per il secondo giorno consecutivo, riformista, si concentra su questo concorso che è avvenuto alla provincia di Brescia, nel quale scrive Riformista con il Tommaso Labate, oggi Carrocciopoli puntata 2, mette i nomi Sara Grumi, Katia Peli, Silvia Raineri, Cristina Vitali, Anna Ponzoni, 5 in quota Lega, c'è la figlia del candidato leghista, la nipote dell'assessore provinciale leghista, la moglie del vice sindaco di Brescia, vale a dire Silvia Raineri, Cristina Vitali, Anna Ponzoni, entrambe collaboratrici del leghista Giorgio Bontempi. Perché hanno vinto loro il concorso? E si va a esaminare gli iscritti, gli orali, quanto hanno preso. Hanno preso a questi iscritti voti altissimi, agli orali, racconta Tommaso Labate, con altri testimoni hanno fatto delle esibizioni un po' meno brillanti. Prova scritta e tripli incarichi, ecco le donne di Carrocciopoli, come viene definita, con anche, per la verità, Il Messaggero che per il secondo giorno consecutivo attacca un po' la Lega, mette in primo piano l'importanza di Roma Capitale, Primo Sì e Bossi che tenta l'ultima frenata. Insomma, questo è il tema politico che affronteremo anche noi. La Lega che scalpita e dice togliamo un po' di ministeri a Roma. In primo piano. Marchionne Fiat in una nuova era, questo è il titolo di pagina 3 del Sole 24 Ore, è l'apertura, il tema più importante del giorno, il tema economico che tratterà anche Oscar Giannino, ricordo alle 9. L'auto ora è libera, così l'amministratore delegato del Lingotto ha annunciato ieri il via libera dell'assemblea allo spin-off, alla divisione in due del gruppo, un momento giudicato storico anche dal presidente John Elkann. Trovate sia a pagina 3 tutte le analisi economiche che ovviamente non vi anticipo, tanto poi alle 9 Oscar Giannino ne parlerà. Come detto, c'è anche Paolo Bricco che a pagina 2 analizza i consumi sul fronte l'auto mondiale, con una inarrestabile corsa dell'auto mondiale verso Asia e Sud America, il boom di consumi soprattutto in Cina e Brasile, mentre il calo c'è in Europa. Molto critico il Manifesto, in prima pagina ci sono Marchionne e John Elkann fotografati, il gioco del meccano, questo è il titolo di prima pagina, con l'editoriale di Loris Campetti che scrive finalmente l'auto è libera, ha detto Marchionne, come se bastasse lo spin-off votato ieri dagli azionisti del Lingotto per far tornare a correre le quattro ruote, quelle Fiat in particolare, senza modelli nuovi dove corri. E queste le critiche. Interessante anche la critica alla quale ha voluto rispondere Sergio Marchionne, vale a dire gli operai di Arese, accogliendola all'ingresso del Lingotto, gli hanno chiesto: perché lei guadagna 400 volte quel che guadagna un operaio? Ebbene, il caso è riportato nella pagina 32 dell'Economia di Repubblica. Ecco la risposta al termine dell'assemblea di Marchionne: voglio dare una risposta alla domanda che mi hanno fatto fuori. Intanto la relazione è sbagliata, perché bisogna fare il calcolo su un salario medio pagato dalla Fiat in tutte le parti del mondo. Tra l'altro c'è da dire, Marchionne ha guadagnato 4.782.000 euro nel 2009. A questo punto io, a parte questo, vorrei sapere quante di queste persone sono disposte a fare questa vita qui. Domandino quando è l'ultima volta che sono andato in ferie e poi ne parliamo. Stamattina, quando sono arrivata alle 6:30, non mi sono preoccupato se i miei diritti erano stati rispettati, sono andato a lavorare. Non possiamo fare discorsi provinciali per gestire un'azienda che ha ambizioni e posizioni globali. Quando sento questi discorsi anche da gente che storicamente ho sempre rispettato intellettualmente, mi dà un grandissimo fastidio, ma mi dispiace anche. Così Marchionne. A proposito di un qualcosa di affine, nel giorno in cui il presidente di Confindustria Emma Marcegaglia ha ribadito sulle stime del Centro Studi Confindustria l'evasione fiscale spaventosa, rivedendo addirittura al rialzo probabilmente le ipotesi di 125 miliardi di euro di evasione fiscale annua in Italia, il giornale oggi esce con uno scoop in prima pagina: la Agnelli non vuol pagare le tasse, l'evasione dell'avvocato. Ne parla pagina 23 Nicola Porro, che fa anche un editoriale in prima pagina. Margherita Agnelli, questi fatti, figlia dell'avvocato, ha ricevuto in eredità beni superiori a 1.500 milioni di euro, di cui una parte provenienti da conti esteri, non avrebbe alcuna intenzione di pagare una multa ridotta di 50 milioni che il fisco le contesta. Questo scrive Nicola Porro, il capo del fisco, insomma dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befer, ha spedito appunto questa lettera. Si porterebbe a casa un centinaio di milioni per una serie di calcoli che Nicola Porro poi spiega. Ma Margherita, la figlia dell'avvocato che ha praticamente ereditato tutto il patrimonio del padre, non avrebbe intenzione di riconoscere il suo debito, 100 milioni debito complessivo, di cui solo la metà in capo alle due persone fisiche, alle due signore, vale a dire Margherita e Marella. Margherita avrebbe fatto sapere di non avere alcuna intenzione di pagare per un'evasione di cui lei non si è resa complice. E Nicola Porro fa anche l'editoriale di prima pagina a dire anche, d'altronde è una questione anche di tensioni familiari, ma certo è una questione di evasione fiscale, così dice Nicola Porro, certamente imbarazzante per una delle famiglie più potenti in Italia. Chiudo con la polemica che Sandro Bondi, il ministro della cultura, ha fatto, e quindi devo prendere in mano il panorama oggi. Trovate a pagina 38, ma è già fonte di polemiche su tutti i giornali, l'intervista che Antonella Piperno ha fatto a Bondi. Ha parlato di cinema, ha detto soldi pubblici al cinema. Per carità, il finanziamento dello Stato al cinema non aiuta a girare buoni film, anzi incoraggia il clientelismo, che è il contrario della vera cultura. E poi su Venezia: non sono andato, non ho bisogno di passerelle, non intendo avvertire il disagio di essere guardato da questi esponenti del cinema alla stregua di un barbaro, con una supponenza, una puzza sotto il naso, una ingenerosità insopportabile. E ecco qui, fermo restando sulla giuria, l'autonomia della Fondazione Biennale, siccome i finanziamenti sono dello Stato, d'ora in poi metterò becco anche in queste scelte, anche a nome del popolo che il governo rappresenta. E quindi già sui giornali Bondi: dirò la mia sulla scelta dei giurati. per esempio Repubblica, Tarantino definito uno snob, Müller uno schematico. La nuova polemica sul cinema, soprattutto sui finanziamenti, no, favoriscono il clientelismo, dice Bondi. Ci fermiamo qui, votate il sondaggio, la Lega vuole spostare alcuni ministeri da Roma. Che ne pensate? Radio24.it, ora il GR. 24 mattino, l'intervista. Quando sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, protagonista della nostra intervista. Il nostro ospite di oggi è Gianni Rivera, che saluto. Rivera, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Da pochi giorni anche presidente del settore giovanile della Federazione Italiana Gioco Calcio, grande ex calciatore. Ne parliamo oggi con Gianni Rivera, perché oggi è un giorno importante, decisivo, per capire se si scongiurerà lo sciopero dei calciatori proclamato. Rivera, sciopero dei calciatori è una cosa che a molti fa sdegno solo a sentire, ma come? Scioperano questi milionari? Lei si sdegna? No, assolutamente no. Quando non ci si mette d'accordo su di un accordo generale e collettivo che riguarda tutti i calciatori, si capisce che non c'è possibilità di dialogare, l'unica strada è quella di minacciare lo sciopero. Quindi mi sembra che ci siano altre possibilità. Se tu chiedi di parlare con qualcuno e quello non ti risponde, che fai? Il fatto è che molti dicono, ma come in un momento di crisi sentire che calciatori, certo che in nome collettivo, anche per difendere quelli meno tutelati, ma calciatori multimilionari possano incrociare le braccia o in questo caso forse le gambe? Sembra che non sia una questione economica, basta guardare i punti in discussione per capire che non c'è di mezzo la questione economica. Poi se i calciatori guadagnano tanti soldi è perché sono i dirigenti che glieli danno, non vanno là con il metra a chiedere i soldi, anzi certe volte sono i dirigenti che cercano di aumentare gli ingaggi per trattenerli oppure per prendere quelli che ritengono più bravi, per cui i calciatori fanno il loro mestiere e quando capiscono che non c'è possibilità di raggiungere una situazione accettabile anche ambientale, pensano che sia utile parlarne. Se poi non se ne può parlare, la minaccia dello sciopero è automatico. A me sembra una cosa normalissima. Normale. Senta, lei in una recente intervista ha anche detto le società vogliono tornare al mercato delle vacche, riferite ai giocatori. In che senso? Non è che vogliono tornare, continuano a farlo. In che senso? C'è sempre il mercato calcistico aperto. Una volta era giustificato perché i calciatori erano proprietà della società, c'era il cosiddetto vincolo. Poi il vincolo è stato eliminato, i giocatori fanno i contratti per il periodo che ritengono giusto e le società anche per giocare in quel periodo medesimo e poi il giocatore può scegliere di andare dove vuole. Il fatto che si continuino a fare trattative sui calciatori vuol dire che non si è ancora raggiunta totalmente questa possibilità. Infatti è uno dei punti in discussione, mi sembra che sia proprio questo. Senta, veniamo al suo ruolo. Bisogna, si dice, riportare anche i giovani e rilanciare sui giovani, sui bambini soprattutto, e l'amore per il gioco del calcio anche con un approccio diverso rispetto a quello gridato, urlato, anche con toni a volte da guerriglia che ormai si assiste non solo negli stadi, ma anche fuori dagli stadi, anche nelle televisioni. È un compito improbo quello di riuscire a riallacciare un discorso, un filo di amore tra i giovani e il calcio, i giovanissimi e il calcio? Potrebbe essere utopia, questo è vero. Una volta che la società, quella più ampia, quella che comprende tutte le attività, si organizza mettendo in evidenza valori diversi rispetto ai valori veri che riguardano l'interiorità degli esseri umani, è chiaro che fare un passo indietro non è facile. Però io credo che parlandone di gente convinta che si debba vivere in un modo diverso, poi chi è che fa violenza è sempre una minima parte, purtroppo è una minima parte che si sente molto, su questo non c'è dubbio. La minima parte rumorosa. Senta, per concludere, ha visto come Ibrahimovic, dopo i due gol, ha trattato Arrigo Sacchi in televisione, no? Gli ha detto: tu parli troppo, tu stai zitto, se hai qualcosa da dirmi vieni a dirmelo in faccia, con Arrigo Sacchi che ha detto: ma impari l'educazione. Gli dava del lei e lui gli diceva: tu che parli. Lei l'avrebbe mai fatto con... No, io non so cosa sia successo per scatenare questa... Ma credo critiche di Sacchi, così, critiche, qualche forse articolo nel quale criticava... È un fatto caratteriale, mi sembra che il giocatore ha avuto questa reazione perché così lui dentro di sé è abbastanza sicuro dei suoi mezzi, sa di essere un personaggio amato dai tifosi... Forse però un po' gli anni... Quella presunzione che lo mette nella condizione di alzare un po' il tono di voce. Mi sembra... Non ho assistito al dialogo, per cui non sono in grado di... No, dire certo, però voglio dire, anche lei è sempre stato un giocatore di carattere, però forse... A quei livelli non ci sono mai arrivati. Cioè, dire, tu smettila di dire così, vieni... No, quello no. Magari avrei fatto l'ironico, avrei cercato di prenderlo in giro per quello... No, avrei fatto così, ecco. Ibrahimovic era arrabbiatissimo. Il problema è suo, personale. Fa fatica poi doppia, perché dopo si deve srabbiare. Va bene, grazie Gianni Rivera, grazie per essere stato con noi. Voglio ricordare, non solo ex calciatore, oggi è presidente del settore giovanile della Federazione Italiana Gioco Calcio, sullo sciopero dei calciatori. Alle 9 inizia la riunione definita decisiva ad oltranza per scongiurare lo sciopero proclamato dai calciatori. Allora, noi parliamo nel nostro sondaggio di federalismo di Lega, la Lega che dice: vogliamo spostare un po' di ministeri da Roma, che ne so, il Ministero dell'Ambiente a Napoli, il Ministero del Tesoro a Milano, il Ministero dello Sviluppo Economico a Torino, del Turismo a Venezia, basta questo centralismo di Roma. Proposta giusta oppure follia? 24 mattino. 8:33 minuti, eccoci qua per il nostro sondaggio. Dunque parliamo, di federalismo, parliamo di ministeri, perché la Lega ha detto molto chiaramente: vorremmo spostare, decentrare dei ministeri da Roma e metterli in varie città italiane. Basta Roma centrale, depotenziamo i ministeri e dislochiamoli sul territorio italiano. Che ne pensate? Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. Radio24.it per votare. Vi state spaccando a metà. Il 52% di voi dice di sì, il 48% no. Se volete 800 24 00 24 per intervenire e 349 238 6666 per i vostri messaggi. Ne parliamo oggi, quando in Consiglio dei Ministri alle 10 si discuterà e si voterà sul progetto Roma Capitale. Sapete che ha detto ieri Umberto Bossi, leader della Lega? Dislocare i ministeri in giro per l'Italia è un'idea molto buona. E a chi gli ha detto? L'ipotesi di delocalizzare i dicasteri in cambio di un appoggio al provvedimento su Roma Capitale potrebbe essere, risponde il senatore. Come dire, la traduco così: voto Roma Capitale, ma voi mi decentrate alcuni ministeri? Chi lo sa? Intanto saluto l'onorevole Amedeo Ciccanti dell'UDC, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i telespettatori. Così, radioascoltatori, così saluto due sindaci dal nord, Treviso, Giampaolo Gobbo della Lega, buongiorno sindaco. Sì, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. E saluto dal sud, Reggio Calabria, al sindaco Giuseppe Raffa. Buongiorno. Buongiorno. Senta, Ciccanti, lei intanto si è molto adombrato in Parlamento, ha chiesto conto a Calderoli, che gli ha risposto in un question time dicendo, facendo gli esempi, che ne so, sviluppo economico a Torino, il tesoro a Milano, il turismo a Venezia, l'ambiente a Napoli, gli interni a Palermo, ne ha messo uno anche a Reggio Calabria, poi vedremo anche Ciccanti, che le dà fastidio di questa supposta delocalizzazione? No, io avevo letto sulla stampa le dichiarazioni di Bossi a Saluzzo, a Cuneo e poi alla festa del povero dei popoli padani a Venezia, dove appunto faceva una battuta: è finita la pacchia per Roma, sposteremo l'economia a Milano, l'agricoltura a Verona, il lavoro a Torino. E allora ho voluto saperlo direttamente dal ministro competente Calderoli come stavano le cose e francamente sono rimasto imbarazzato quando il ministro Calderoli mi ha detto: Ma sa, in quella circostanza parlavamo da dirigenti della Lega, io ero il senatore, Bossi il deputato, ma non in veste di ministro, intendeva dire. Allora io ho detto, ma siete una specie di dottor Jekyll, mettete nelle lande padane la camicia verde la notte e poi venite a Roma, nella Roma ladrone, diventate ministri, non è possibile questo. Allora, parlavano al loro popolo, vabbè, ma lei ha fatto un'interrogazione parlamentare e le ha risposto Calderoli, ha detto è un progetto che portiamo avanti. Poi ha peggiorato, perché ha detto, dice, ma perché no? E lì parlava nella veste di ministro, e sarebbe opportuno l'ambiente a Napoli, a Palermo e l'interno, come lei stava dicendo. Allora ha peggiorato la situazione. Dice peggiorato, però sentiamo Gobbo, sindaco di Treviso, ma è una butade leghista, insomma è un modo per tenere sempre alto il, come dire, l'asticella delle richieste, delle pressioni del popolo della Padania, oppure c'è qualcosa di concreto che volete fare? Io credo che si debba anche ragionare proprio in termini di federalismo e quindi anche di quello che è l'attuale situazione. Io non vedo così grandi, diciamo, negatività. Se pensiamo ad esempio all'Europa, noi abbiamo tre sedi fondamentali di quelli che sono gli enti che gestiscono la grande Europa. Abbiamo il Lussemburgo per la questione economica, abbiamo Bruxelles sede delle commissioni, esatto, e poi abbiamo Strasburgo sede del Parlamento, per cui anche qua potrebbe essere un esempio. Però il ministro ha detto c'è una legge istituisce Roma come sede del governo, certo, ma ha detto ma non è una legge costituzionale, è una legge ordinaria, si può cambiare. Ma quali sarebbero gli interessi di avere, che ne so, cioè partiamoci chiaro, cioè è una battaglia contro il centralismo di Roma ladrona? Non è questione di Roma ladrona, cerchiamo di capire. Le sedi di ministeri ovviamente portano anche lavoro, portano grande economia, è inutile fasciarsi la testa, ma sappiamo bene che ci sono poi tutta una serie di situazioni. Vediamolo anche in termini magari aziendali, no? Un'azienda anche porta a delocalizzare determinati uffici dove ha determinati o maggiori magari interessi o introiti. Io credo che Bonn e Berlino ad esempio in Europa dimostrano anche questo, ma non solo, nella stessa Inghilterra abbiamo mi sembra che il Ministero di Istruzione sia delocalizzato da Londra, quindi non vedo tanta l'AIA in Olanda, i paesi. Forse è lo spirito che in questo momento anche dire che Roma capitale la firmo, ci date un po' di ministeri. Ma vede anche questa logica di non voler accettare magari un po' di idee. Io ricordo Napoli, ad esempio, è stata una grandissima capitale, ma anche a livello industriale, la prima ferrovia, e quindi per non parlare di altre situazioni, non vedo perché perché debba scandalizzare. No, ma tra l'altro guardi, il sindaco di Torino, Chiamparino, ha detto, per esempio, io non la vedo male, anzi candido Torino allo sviluppo economico. Perché no? Sentiamo il sindaco di Reggio Calabria, ecco, le è stato ipotizzato dal ministro Calderoli la sanità, oppure gli interni anche, no? La sanità o gli interni a Reggio Calabria, facendo un'ipotesi così futuribile. Lei da sindaco la vedrebbe volentieri un ministero a Reggio Calabria? Ma guardi, intanto saluto anche il collega di Treviso con il quale sicuramente condividiamo l'attaccamento ai territori. Noi dal punto di vista del federalismo non siamo dal punto di vista pregiudizialmente contrari. È chiaro che ci chiediamo e rivendichiamo con forza che questo sia un federalismo solidale, che guardi soprattutto ai territori con un'analisi anche di ipotesi di sviluppo. E quindi su questo io, se il Ministero degli Interni sarebbe indicato a Reggio Calabria solo perché qua c'è una situazione, diciamo, dal punto di vista della legalità preoccupante, io chiederei con forza, e quindi forse entrerei in conflitto con il collega di Torino, che ci fosse qua a Reggio Calabria il Ministero per lo Sviluppo Economico. Lei preferirebbe, lei si prenderebbe più volentieri. Sappiamo che la lotta alla criminalità organizzata non si fa solo ostentando i muscoli o con un'azione di repressione. ma bisogna costruire sui territori delle concrete ipotesi di sviluppo in cui si dia occupazione e soprattutto si sottragga alla criminalità organizzata appunto questa manovalanza che in qualche modo alimenta appunto questi percorsi di illegalità. Sì, l'ipotesi è questa, sindaco. Effettivamente io vedere il Ministero dell'Ambiente, che ne so, mettiamola a Napoli casualmente dove c'è stato il problema dei rifiuti, quello degli interni Palermo-Reggio Calabria, no, mi viene subito a pensare l'Andrangheta, la mafia o la sanità. Si dice sempre in Calabria la sanità è un po' più in difficoltà rispetto agli altri. Cioè lei dice, ci vede, che c'entra, voglio dire, non è che si mette il Ministero degli Interni e l'Andrangheta scompare, no? Questa è un'obiezione, sindaco Raffa, effettivamente valida. Ma lei lo vedrebbe bene, cioè un ministero, cioè, sarebbe favorevole comunque? Sì, noi saremmo favorevoli sicuramente, se la logica che sta alla base di questi criteri non è tanto spostare su una cartina geografica delle pedine, ma si tratta soprattutto di andare a individuare dei percorsi concreti di sviluppo. Noi come città siamo pronti ad accogliere qualsiasi ipotesi del genere, anche perché già da parte del governo abbiamo avuto grosse attenzioni. Non dimentichiamo che a Reggio c'è stato un consiglio dei ministri, c'è la presenza costante da parte dei ministri degli interni. Insomma, perché la traduco così, perché no? Ha sentito onorevole Ciccanti, qui anche le delocalizzazioni, i localismi, le volontà di creare sviluppo indotto da parte di due sindaci, nord e sud, così vede anche Raffa, non è certo un leghista, la vede favorevolmente, onorevole Ciccanti. Che guardi, dire? Mi consenta una osservazione su quello che ha detto il sindaco Gobbo e il sindaco Raffa, poi dico qualcosa di mio per il problema di carattere generale. Innanzitutto dobbiamo porci il problema quanto costa spostare un ministero, perché poi non è che è facile trasferire tutti i dipendenti del Ministero dell'Interno a Calabria, e così per gli altri. E chi paga questi costi, visto il tempo di vacche magre che abbiamo? Detto questo, voglio far osservare al sindaco del Gobbo, ma il federalismo non è rafforzare il centralismo in periferia, cioè spostare i ministeri, ma tutt'al più chiudere i ministeri. Non dimentichiamoci che c'è stato a federalismo a Costituzione invariata del federalismo, i decreti Bassanini, c'è stata il trasferimento di funzioni alle regioni e l'abolizione dei ministeri dell'agricoltura, del turismo e della sanità. Il governo della Lega li ha invece ripristinati e rafforzati. Vabbè, quindi lei dice, cioè, che è il federalismo delle poltrone, cioè spostiamo le poltrone, ma vuole le vogliamo solo sotto casa invece che a Roma. Ha sentito Gobbo? Questa è un'accusa ben specifica. Volete le poltrone solo un po' vicino a casa rispetto che andare a Roma? No, cerchiamo di capirci anche qua. Intanto chi paga il nord. Tre regioni a statuto ordinario producono il 70% di prodotto interno lordo e pagano il 72% di tasse in questo Stato. E pagate i ministeri a Roma. Al di là di questo. Ma è certo che è ovvio che un ministero, magari posto in situazioni dove si è abituati a partire alle 6 del mattino e arrivare magari a mezzanotte e oltre per definire le cose che ci sono nelle aziende, io credo possa essere anche molto più tagliato. Quindi molto ma si immagini, almeno Roma sta più o meno in centro, si immagini se viene a Torino un'azienda di Reggio Calabria o di Bari, che fa? Insomma, altro che mezza giornata. Molto più snello di quello che è. Comunque è sul principio di decentramento che ci si basa, quindi non è tanto su concetti di chi paga, il 27 del mese non è mai arrivato dal buon Dio, è sempre arrivato da quelle zone di questo Stato che producono, che fanno e che si danno da fare, quindi non è questo certamente il problema, anzi può essere anche un insegnamento. Allora, certamente e soprattutto anche da renderli attuali, snelli, non diciamo... La dica tutto, se c'è un ministero, che ne so, a Treviso sarebbe più snello e meno elefantiaco e meno lassista, magari, di quello di Roma, no? Lo io dica. Credo che comunque abbiamo dimostrato e lo stiamo dimostrando ricordo anche la Serenissima Repubblica di Venezia, che è durata, ha battuto moneta per ben 11 secoli, e dai Savoia al fascismo è stata cancellata dalla storia di questo Stato. Per cui io credo che bisogna anche pensare un po'. Io vedrei benissimo invece il Ministero della Cultura, ad esempio, a Venezia. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il 53% di voi dice sì, spostiamo un po' di ministeri da Roma, e quindi vi state dividendo a metà. Ma voglio sentire un paio di ascoltatori. Marcello da Roma, eccoci qua, la patria dei ministeri. Dove ci sta il esatto, governo? Marcello, buongiorno, che dice? Ma io sarei felicissimo. Buongiorno, io sarei felicissimo che togliesse i ministeri. E perché? Ma sapete che bello? Adesso ridurrebbe il traffico, gli studenti andrebbero a scioperare a Firenze, non so, gli operai a Torino. Ah, per quello, i disagi alla città, insomma. Beh, ma assolutamente c'è, c'è un indotto incredibile. Roma verrebbe restituita la cittadinanza, Roma tornerebbe ai romani, staremmo tranquilli, meno traffico, meno persone, meno Però Marcello, guardi che quanti, adesso io non ho i numeri, ma quante persone, quanto è l'indotto, quanti dipendenti dei ministeri, insomma è una città che per, anche per i conti economici è importante, moltissime famiglie si basano su questo, sono dipendenti dei ministeri, no? Lei non si pone questo problema? Va bene, guardi, tornerebbe a essere una realtà molto più vivibile. Io le darei anche omaggio al Vaticano, guardi, se vuoi. Ah, vabbè, ci prendiamo anche il Vaticano. Ma Roma bucolica, torna così. Antonio da Milano, grazie Marcello. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno, io invece ho un parere nettamente opposto. Sinceramente. E com'è? Da Roma, mo che Marcello ce li vuole dare, lei da Milano non li vuole. No, assolutamente. Tra l'altro io la chiamo da Milano, però sono napoletano di origine. Sì. Ah, il Ministero dell'Ambiente a Napoli non è male. No, non me ne voglia. Io vedo un'enorme trappola da parte della Lega in questo, perché il divario che c'è tra il nord e il sud è già enorme e finirebbe per essere acuito, perché ovviamente vorrebbero tutto ciò che è economia a nord. E dove andiamo a parare? Poi sento sempre sbandierare questi programmi molto forti. Di tanto in tanto Bossi viene fuori e dice: noi abbiamo 10 milioni, 20 milioni. Io poi sono curioso, mi sono sempre chiesto, e lo chiedo a voi, ma nella conta che fa Bossi ci sono anch'io, c'è anche la mia famiglia, ci sono i miei amici, che siamo tutta gente del sud che vive con amore. Chi lo sa, tra poco lo chiedeva al sindaco Gobbo, Antonio, grazie. E sindaco Raffa, sindaco di Reggio Calabria, sì. Ma è questa cosa che ha detto Gobbo, effettivamente, cioè lei vede il rischio che se messa così come la vuole la Lega, è appunto l'economia al nord e al sud, magari i ministeri, stiamo un po' tralgiocando, ma neanche tanto, perché è un'ipotesi che viene lanciata, cioè dire allora questo è un distacco totale, cioè al sud che ci date i ministeri dove lo sviluppo economico, l'economia non c'è nulla. No, ma in effetti è stata la prima mia, se vogliamo veramente il cellulare però non ci aiuta, sindaco, vediamo sì. Adesso provi a dire, adesso la sento un po' meglio. Allora dico, la considerazione che facevo proprio nell'approccio della nostra discussione era quello proprio di considerare lo sviluppo dei territori e quindi considerare la crescita complessiva dell'Italia, andando a rafforzare quel tessuto economico dove è molto più fragile, tipo il sud. Quindi su questo sono d'accordo con il radioascoltatore di però Milano. lei sindaco, quando dice anche l'indotto, cioè non è che il ministero è un poltronificio, oppure viene un po' dipinto così, c'è cioè un po' di indotto, un po' di lavoro, penso, no? Io penso che invece un ministero sul territorio sarebbe in grado di cogliere veramente le potenzialità del territorio e quindi prevedere uno sviluppo che sia uno sviluppo sostenibile, perché insomma non dimentichiamo, anche per rispondere al collega di Treviso, che tanti calabresi e tanti reggini hanno contribuito allo sviluppo economico del nord con braccia lavoro e con intelligenze, perché ne abbiamo tantissime. Alla Serenissima Repubblica. A proposito, sindaco Gobbo, eccoci qua, mi spiega un po', magari risponde così anche l'ascoltatore da Milano ma napoletano, che è successo domenica a Venezia, che c'era la grande manifestazione della Lega, c'è stato questo, alcuni scontri con alcuni che certo in modo un po' provocatorio, no, sono passati col tricolore, provocatorio nel senso che tu vai in una manifestazione col tricolore, si sono presi degli insulti, delle botte, sono stati... Ci cerchiamo comunque di capirci, cioè è una realtà di fatto che il Veneto, che la Padania come moderna regione economica o super regio europea, come viene definita nei quaderni della Fondazione Agnelli dagli economisti nel quindi 90... la Padania esiste, quindi esatto, questo lei vuol dire la Padania esiste, vabbè, ma certamente ma al di là di questo, vede, non è una questione nemmeno di provocazione, quello era un partito politico che ha fatto, erano militanti di un partito politico, ma era gente col tricolore, cioè era gente sì, certo, gente col tricolore è una cosa, ma c'erano, io le sto spiegando quello che c'è anche nella cronaca, nei giornali di cronaca, che è uscito, cioè c'era un grillino, quello che si vede, la bandiera italiana ce l'ho anch'io in comune, cioè non è un problema, questo Stato si fonda su questa bandiera, non c'è il minimo dubbio, che poi noi abbiamo un'altra bandiera, un'altra identità nel nostro sogno, perché io ricordo ad esempio che l'ideologo nostro è Gianfranco Miglio, che parlava appunto delle tre macro regioni e certamente con una attività differenziata e al di là di qualsiasi logica, ma veniamo al punto, io sento sempre di dire ma per lo sviluppo, il ministero per qua, ma cerchiamo di capire che l'economia la fanno le persone, la casa, il lavoro me la deve dare lo Stato, ripeto, non può più essere, cioè non esiste questo, e certamente sono d'accordo, insieme agli altiforni, negli altiforni degli Agnelli e nelle miniere in Belgio o in Argentina o nelle Americhe, insieme a praticamente agli amici meridionali, c'erano i veneti e i friulani. Tutti, cioè veneti, friulani, calabresi, napoletani, campani, tutti. Bravo, e allora però è lei che dice qui dal nord sosteniamo col 70% dell'economia. Ma chi lavora? Ma io credo, guardi, abbiamo un meridione meraviglioso. Lei si pensi, Israele in mezzo al deserto fa due raccolti in agricoltura all'anno. Ma si pensi all'allevamento fatto bene, non importando prodotti cinesi e poi venderseli, magari parlo di agricoltura, venderseli. Siamo partiti dai ministeri, ma guardi, ma pensi alla pesca fatta bene, al turismo con le coste pulite, alla cultura enorme. Se non ci sparano quando peschiamo, se non ci sparano. E facciamo la cementificazione, facciamo le fabbriche che poi per portare una gru, un attrezzo del nord o dove deve andare. Ci fermiamo qui, siamo partiti dai ministeri, ma vedete che bel venerdì spumeggiante abbiamo chiuso. Grazie a Giampaolo Gobbo, sindaco di Treviso, Giuseppe Raffa, Reggio Calabria, e Amedeo Ciccanti, onorevole dell'UDC. Ci fermiamo con Valeria Coffaro in redazione e Peter Bescapè in regia. La linea va Oscar Giannino e noi ci troviamo lunedì mattina.